Allora, il mio nome è Andrea Cosimo D'Amicis e sono l'autore del libro Il libro della vita per tutti. Il libro si può scaricare tranquillamente dall'internet ed è gratis. Quindi non bloccate la possibilità alle persone che vogliono migliorare il mondo, perché il libro è fatto per voi, perché voi dovete uscire da questo stato di prigionia. Vi ringrazio e prendete sul serio questo messaggio dal vostro fratello Andrea Cosimo D'Amicis.